La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo. Questo è il podcast di Effetto Giorno. Al microfono, come sempre, Simone Spezia. E grazie naturalmente per aver scaricato il nostro podcast. Se avete dubbi, critiche, idee, l'email è sempre quella, effettogiorno@radio24.it, oppure c'è la nostra pagina Facebook. Come sempre, tutti i giorni cerchiamo di ripercorrere un po' le notizie della giornata, cerchiamo anche di rimettere ordine in queste notizie, di farvi ascoltare degli approfondimenti e anche qualcosa in più. Il qualcosa in più di oggi, nella fattispecie, è una versione più lunga, estesa, dell'intervista che abbiamo realizzato con Andrea Ciocca. Chi è Andrea Ciocca? Il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Donetsk, in Ucraina, che ci ha dato una descrizione abbastanza precisa e puntuale della situazione, una situazione di vera e propria guerra, che sia guerra civile o guerra vera e propria non lo sappiamo, nella quale vengono colpite anche le strutture mediche, e ha detto tra le altre cose che quella che al momento è un'emergenza umanitaria potrebbe trasformarsi a breve in una catastrofe umanitaria. Ricordiamoci che siamo ad un passo dall'Europa, ricordiamoci che siamo a 2000 km da Roma, per darvi un'idea in linea d'aria, quindi a distanza veramente ristretta, cosa che ogni tanto tendiamo a dimenticare. Gli altri argomenti naturalmente sono la vicenda di ISIS, dopo il pilota giordano che è stato ucciso da ISIS, dai terroristi di ISIS, è stato arso vivo con delle immagini che hanno fatto il giro del mondo, delle immagini terribili, e la Giordania che ha deciso a sua volta di rispondere a ISIS, condannando con l'esecuzione della condanna a morte per una terrorista irachena. Parleremo anche di politica, perché oggi il tema dominante è lo scontro interno a Forza Italia, che si fa sempre più forte. C'è anche un tweet in latino dell'onorevole Maurizio Bianconi che parla di un orifizio rotto, ve la metto proprio così, che gli abbiamo chiesto di tradurre in diretta. Iniziamo da ISIS, come si diceva, la ISIS che colpisce con un video terrificante, la Giordania che reagisce, l'imam di Al-Azhar, il luogo di insegnamento sunnita più importante del mondo, al Cairo, che dice che i terroristi di ISIS andrebbero crocifissi addirittura. Il punto e l'analisi soprattutto con l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. Siamo davanti a una reazione forte, rabbiosa e anche in parte un po' improntata alla legge del taglione, come è stata l'impiccagione questa mattina all'alba dei due terroristi ad Amman. In realtà poi bisogna vedere quanto e come si durerà e se si tramuterà in atti politici e militari concreti, perché ricordiamo che questa coalizione internazionale non è quel fronte omogeneo e compatto che si vorrebbe presentare al mondo. In realtà tra gli alleati arabi degli americani ci sono l'Arabia Saudita, la Giordania, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, ma per esempio gli Emirati hanno sospeso i voli sulla Siria e sull'Iraq proprio perché in contrasto con gli americani, che non hanno preparato piani per l'eventuale salvataggio e recupero dei piloti sul posto. Insomma, ci troviamo di fronte a tante reazioni adesso molto forti, molto rabbiose, ma bisognerà vedere se proprio il califfato non riuscirà poi a raggiungere qual è in realtà il suo scopo, che è poi quello di dividere il fronte della coalizione anti-ISIL. Abbiamo voluto sondare su questo tema anche un'altra opinione, quella di Gianluca Ansalone, che è docente di geopolitica e strategia alla SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, perché la nostra sensazione è che fuori di retorica l'orrore si stia incrementando, le decapitazioni, i bambini che sparano in testa ad agenti russi, un'altra vicenda che vi abbiamo raccontato, e poi infine il pilota Giordano arso vivo. Vogliamo capire, ed è questo che abbiamo chiesto innanzitutto ad Ansalone, se tutto questo non solo da un punto di vista dell'azione pura ma anche dal punto di vista mediatico corrisponda ad una precisa strategia da parte degli jihadisti. Sentiamo cosa ci ha risposto. Dare le parole di Giovanni Falcone, che parlando dell'organizzazione mafiosa faceva riferimento a delle menti raffinatissime. Siamo in presenza di un fenomeno molto simile, la strategia è estremamente sofisticata, è sofisticata la strategia di posizionamento, la strategia di comunicazione e soprattutto una parte purtroppo non collaterale di questa strategia è anche la recrudescenza continua della violenza e delle immagini che vengono diffuse. A cosa puntano? Cioè, qual è la strategia, Ansalone? Ecco, sicuramente i messaggi che vengono lanciati sono messaggi di minaccia feroce nei confronti non soltanto dell'Occidente, lo abbiamo visto drammaticamente in questo caso, nei confronti della coalizione che si oppone all'ISIS. Il pilota, come lei ricordava giustamente, è di origine giordana ed era impegnato in un volo di ricognizione sui territori dell'ISIS, quindi in missione. Parla quindi con un linguaggio di violenza a chi si oppone alla strategia dell'ISIS, ma io direi che parla soprattutto al mondo arabo-musulmano. È un messaggio che tende sostanzialmente a dire ai militanti o ai potenziali militanti: guardate che questa volta si fa sul serio, se vi unirete a noi, non vi unirete ad una battaglia effimera, non vi unirete a qualche organizzazione sporadica, magari anche in grado di affondare qualche brutto colpo, ma non in maniera continuativa e non in maniera strutturata, vi associate e vi associerete ad un modello politico, ad un'ideologia, ad una metodologia, quella della violenza, che ha un obiettivo finale, che è un obiettivo politico, e cioè dare vita ad uno Stato, ad un califfato, al ritorno del califfato dopo molti, molti secoli. Ansalone, molto brevemente, non c'è anche un messaggio verso l'Occidente e quindi spingere appunto l'orrore sempre un passo più in là per spingere lo stesso Occidente ad una reazione ancora più dura e innescare quello che viene chiamato forse impropriamente scontro di civiltà? Guardi, purtroppo credo sia paradossale, ma ritengo che l'aumento della violenza giochi sul filo delle contraddizioni occidentali. Mi spiego rapidamente. Il fatto che l'Occidente non abbia ancora risposto in maniera decisa con un'azione militare per sopprimere le roccaforti e i santuari dell'ISIS, i presidi sul territorio, significa che lascia spazio al terrorismo perché continui ad agire in questo modo. I terroristi sanno che possono tirare la corda perché per il momento l'Occidente non ha risposto in maniera adeguata. Il loro tentativo è quello di trascinarli in un conflitto aperto, che non è la nostra volontà, che non è la volontà dell'Occidente, ma di certo l'assenza di una risposta massiccia contro l'ISIS fa sì che i terroristi si sentano sicuri di poter continuare su questa strada. E restando all'estero dunque, l'Ucraina. Oggi è stata un'altra giornata di battaglie, continua ad essere battaglia tutte le notti, altre 6 morti civili nelle ultime 24 ore, poi un ospedale attaccato nella giornata di oggi. Abbiamo chiesto un quadro della situazione ad Andrea Ciocca, appunto, che è il capo progetto di Medici Senza Frontiere in Ucraina, a Donetsk, è uno dei luoghi dove si sta combattendo in questo periodo. Sentiamo. Stando molto vicini alla linea dei combattimenti, la prospettiva rende difficile capire che tipo di conflitto sia in atto, che si tratti di una guerra civile, che si tratti di una guerra vera e propria. Quello che possiamo osservare sono bombardamenti quotidiani lungo appunto la linea del conflitto, che si è spostata dopo che i ribelli hanno preso il controllo dell'aeroporto, si è spostata un po' più a est rispetto alla città, e ciò nonostante i colpi di mortaio sia in una direzione che nell'altra si succedono lungo il giorno e la notte. Purtroppo le vittime continuano, il numero delle vittime continua ad aumentare. Credo che il conteggio abbia superato le 5.300 e tra le vittime ci sono ovviamente sia i militari che i civili. 5.300 da quando hanno iniziato a riacuirsi le violenze, cioè nell'ultimo paio di settimane, dice lei? No, 5.300 dall'inizio del conflitto, sì. dalla primavera scorsa. 5.300 vittime. Allora, senta Ciocca, si diceva che si registrano anche attacchi a strutture mediche, tra l'altro strutture mediche alle quali state fornendo supporto. Sì, esatto. Noi Medici Senza Frontiere dall'inizio del conflitto sta supportando ospedali e strutture mediche più piccole, ambulatori, policlinici diciamo di primo livello. E, durante le nostre visite quotidiane possiamo purtroppo osservare che i combattimenti e i bombardamenti non si limitano agli obiettivi militari. Siamo stati settimana scorsa a visitare e a portare una donazione di materiale medico e di farmaci in un ospedale a Telmanova, un po' più sud rispetto a Donetsk. L'ospedale, appunto la struttura, è stata costruita venerdì scorso. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma chiaramente quando le strutture mediche vengono colpite, la popolazione non può sentirsi sicura di andare a essere visitata in un ospedale. C'è anche un piccolo ambulatorio vicino a dove abbiamo il nostro ufficio, che è una zona che era considerata tra le più sicure della città di Donetsk, a meno di un chilometro di distanza, è stata colpita due settimane fa. In questo caso purtroppo ci sono stati dei feriti, fortunatamente nessuna vittima, però un medico e quattro pazienti sono stati feriti. Senta Ciocca, avete scritto che è sempre più difficile gestire l'afflusso dei feriti e gli stessi bombardamenti bloccano i civili che non si possono muovere, cioè non c'è nemmeno, per così dire, so che può essere brutale dirlo così, non c'è nemmeno la possibilità di diventare profughi per queste persone. Dall'inizio del conflitto ci sono stati molti movimenti di persone. Alcune persone hanno deciso di andarsene da Donetsk e da tutta la regione fin dall'inizio del conflitto, altre hanno deciso di cercare di rimanere e poi se ne sono andate a un certo punto. Dipende poi anche da dove attivamente si stanno concentrando gli scontri. Nell'ultima settimana i due opposti eserciti si stanno scontrando in modo particolarmente violento nella zona di Debaltseve, che è un po' nord-est rispetto a Donetsk. È una zona tuttora sotto il controllo del governo ucraino, che i ribelli stanno cercando di prendere. Anche in questo caso l'ospedale è stato colpito, purtroppo anche un'infermiera è morta e tutti i pazienti sono stati trasferiti in un ospedale ad Artsakh, che è la sede di un altro progetto di Medici Senza Frontiere, perciò i nostri colleghi stanno cercando di accogliere i pazienti provenienti da questo ospedale e di mandare aiuti umanitari nella zona dove i combattimenti sono tuttora in corso. E un'altra delle operazioni appunto che sta succedendo è quella dell'evacuazione dei civili da questa zona, perché evidentemente è molto pericoloso. Si riescono ad evacuare oppure no? Per il momento la zona di Debaltseve è troppo pericolosa per noi, per essere presenti in prima persona. Abbiamo osservato colonne di autobus che riescono ad evacuare i civili e abbiamo utilizzato questi autobus per far arrivare i nostri aiuti all'interno del territorio conteso. Vorrei capire questo, posto che naturalmente la vostra missione è quello, il vostro anche mestiere, insomma quello che state andando a fare là, vi sentite al sicuro come personale di Medici Senza Frontiere o non vi sentite più al sicuro nemmeno voi? Ovviamente quando decidiamo di venire a lavorare in posti di guerra sappiamo che prendiamo dei rischi e cerchiamo di valutare bene dove lavoriamo. Ogni spostamento viene autorizzato dopo aver valutato dal vivo, in diretta, qual è la situazione. Cerchiamo di ridurre al minimo la possibilità che qualche incidente succeda. Purtroppo certo, non possiamo essere sicuri al 100%, in questo senso condividiamo anche l'insicurezza della popolazione che cerchiamo di aiutare. Ovviamente quando ci sono combattimenti aperti, nonostante ci siano dei bisogni molto gravi, molto acuti per la popolazione, cerchiamo di attendere che la situazione sia un po' meno pericolosa e cerchiamo di prestare il nostro soccorso quando è possibile. Si sente di definire la situazione al momento a Donetsk, nelle zone intorno a Donetsk, una vera e propria emergenza umanitaria? Assolutamente. La situazione di conflitto ormai si sta protraendo da molti mesi. La capacità della popolazione di far fronte alle conseguenze sia dirette che indirette del conflitto sta venendo sempre meno. Consideriamo poi che c'è anche la stagione invernale che è arrivata, il freddo rende tutto più complicato. La situazione economica ormai tutte le infrastrutture, quelle economiche sono crollate, c'è poca possibilità di lavorare. Le persone che prima del conflitto avevano uno stipendio, una pensione, non ce l'hanno più. La disponibilità nelle farmacie di medicinali, ma anche di cibo nei supermercati, sta diminuendo. La situazione è molto pesante, ma non solo a Donetsk, ma anche nell'altra provincia ribelle, quella di Lugansk, che è più a est e che già prima del conflitto era più povera. Quindi la situazione che il nostro progetto, i nostri colleghi a Lugansk stanno osservando, è ancora più grave di quella che è attualmente a Donetsk. Quindi non ho dubbi, la situazione umanitaria è drammatica e se la situazione non migliorerà nei prossimi mesi, sicuramente andiamo incontro a una catastrofe. Un'ultima domanda che le voglio fare è che, collaterale a tutto questo, ma forse nemmeno troppo, naturalmente lei ci ha parlato prevalentemente di quella che è l'emergenza medica vera e propria e adesso anche dell'emergenza economica, e poi c'è un fattore all'interno di questa emergenza umanitaria di prostrazione psicologica, immagino, della popolazione dopo tanti mesi di combattimenti. Sicuramente una componente importante del nostro intervento in quest'area è quella della salute mentale. Abbiamo delle equip di psicologi che cercano di intervenire e di mitigare le conseguenze che questo conflitto sta portando e quotidianamente cercano di spostarsi nelle zone più colpite e di individuare situazioni individuali o di gruppo di stress, di trauma psicologico diretto e indiretto. E come in ogni contesto di guerra, le conseguenze psicologiche sono altrettanto importanti che quelle, diciamo, fisiche o da trauma fisico, e più continuerà il conflitto, più queste conseguenze saranno pesanti. Siamo alla politica adesso. Politica naturalmente oggi vede i problemi interni a Forza Italia al centro di tutto. Raffaele Fitto sferza l'attacco a Forza Italia dopo la debacle azzurra sul voto al Quirinale. Bisogna sostituire il gruppo dirigente, azzerare completamente i vertici di partito, dice l'ex governatore della Puglia. Serve una svolta. Noi restiamo in Forza Italia, assicura Fitto, ma apriamo con forza il confronto nel partito sulla linea politica e sul suo assetto. Non si può più derogare. E l'ex ministro torna a rilanciare le primarie. Dobbiamo sostituire il gruppo dirigente con uno scelto dai nostri elettori. Ma la svolta di Fitto non piace, o almeno sembra non piacere, a Silvio Berlusconi, che convoca i fedelissimi a Palazzo Grazioli, un ufficio di presidenza ristretto, un vertice di cui non si riconosce la valenza politica. In tutto ciò però Berlusconi rimanda di una settimana l'assemblea dei parlamentari che si doveva tenere oggi pomeriggio a mercoledì prossimo, quindi un sintomo delle difficoltà. Ma anche il Cavaliere è perplesso sui rapporti con Renzi dopo il voto sul Quirinale. Ieri ha ammonito il Premier: da ora in poi diremo sì solo a ciò che ci convince. Si rincorrono ancora poi le voci di alcuni parlamentari azzurri in volo verso la Lega di Matteo Salvini. Di tutto questo abbiamo parlato con Maurizio Bianconi, onorevole di Forza Italia, lo sapete, è uno che non le manda mai a dire. Oggi ha fatto un tweet in latino, gliel'abbiamo riassunto e gli abbiamo chiesto di tradurlo. Buongiorno a voi. Allora, partiamo dal latino, va. Oggi c'è un suo tweet. Lo leggo e poi le chiedo la traduzione. Spregiudicatus prejudicatusque pactum fecerunt. Mattarella venit, Quirinale capto, pactum et utrorumque orificium lente sed perpetuo rupit. Per chi ha un po' di memoria di latino si capisce abbastanza bene, però la traduzione me la deve far lei, perché certe cose non le posso dire. Prego. Il pregiudicato e lo spregiudicato fecero un patto. Arrivò Mattarella, conquistato il Quirinale, tacitamente ma lentamente gli fece a pezzi l'orifizio a ambedue e il loro patto. E fece a pezzi, quindi, appunto, l'orifizio e il patto. Senta, Forza Italia è finita, Bianconi. Forza Italia, se non diventa un partito politico che parte dal basso e fa il dovere dei partiti politici, è indubbiamente una sigla priva di significato ormai. Al momento sembrate veramente a pezzi, a guardare anche solo le dichiarazioni. Non è che sembriamo, se lei ha un partito che prende 13 milioni di voti e dopo 5 anni lo stesso partito piglia 1,8 milioni, e la gente che l'ha portata da 13 milioni a 1,8 milioni è sempre lì e fa finta di niente, applica pezzi. Ma vanno veramente azzerati i vertici? Tutti i vertici vanno azzerati, e va soprattutto soddisfatto il principio che quando c'è il centro-sinistra al governo, il centro-destra deve fare l'opposizione. E se si fanno, per esempio, le riforme istituzionali e si cambia la Costituzione, la prima cosa che si deve fare è sopprimere il Senato e il Presidente della Repubblica eletto direttamente, si mette un tetto alla fiscalità e alla spesa. E questo è quello che noi vogliamo, non tutte le bischiavate che ci mette Renzi. Tutti dicono che sono le nostre riforme, la gente non vuole essere presa in giro. Senta, Berlusconi dice sono convinto che possiamo tornare maggioranza, sono dichiarazioni di pochi istanti fa. Lei ci crede? Chi è convinto rilasci pure la convinzione, è fuori da ogni credibile ripresa un discorso di questo tipo. Ormai c'è una destra che avanza sotto legge dei Salvini, e c'è un renzismo che avanza nell'altra parte del suo elettorato, e nel mezzo c'è lui che fa il cane dell'ortolano, cioè non mangia e non fa mangiare, perché i nostri voti se li prende tutti Salvini o Renzi, e lui desertifica la nostra area. Quindi come faccia a tornare maggioranza Dio solo lo sa. Si deve far da parte l'ex cavaliere. Io sono meno prudente di Fitto, che è lui è di matrice democristiana, parla diretto ma non direttissimo. Io invece sono di altra matrice, parlo direttissimo, l'ho già detto. Lui ha la classe di Ronaldo, è stato il nostro capo, gli si vuole tutti bene. Se intende continuare a fare il nostro capo e fare l'opposizione e fare la punta di diamante e go nella porta degli avversari, bene. Ma se tutta la sua classe la deve adoperare per fare un'autorete dietro l'altra, allora forse si smette meglio. Quindi tutto sommato, visto anche come sta andando, se smette meglio in sostanza, Bianconi. Se può essere illuminato e capire, azzera tutti, manda tutti a casa, dici io sono il vostro presidente, per piacere fate il tesseramento, fate i congressi, fate le primarie, fate quello che volete, rifatemi il partito nel territorio, vediamo se con i nostri principi riusciamo a riconquistare la gente che abbiamo tanto deluso. Ho capito di aver sbagliato, vi guiderò ancora, noi ci siamo tutti, ma se continua così meglio stia a casa. Annusando l'aria in Parlamento, Bianconi, secondo lei quanti dei vostri sono in transito verso la Lega? Di deputati nessuno. Nessun deputato andrà verso la Lega, secondo lei? No, perché il nostro gruppo è fatto di gente, diciamo così, non autonoma, nel senso che è lì e fa quel che gli viene detto, e di gente che ragiona di politica e capisce che la Lega è l'estrema razio rispetto a un elettorato che pensiamo di rappresentare, che è un pochino più prudente. Siamo alla cronaca, chiedendoci innanzitutto se chissà se le previsioni ci hanno azzeccato, e quindi la giornata di domani sarà la giornata di Big Snow, la grande nevicata sul nord e il centro Italia, che bloccherà tutto, creerà problemi sulle strade. Naturalmente sono stati già approntati tutti i piani nel caso di eventualità di questo genere. Nel frattempo le piogge dei giorni scorsi hanno colpito un'altra volta gli scavi di Pompei. Il servizio. In attesa delle forti nevicate previste per domani in tutta la pianura padana, specie in Emilia-Romagna, in queste ore è soprattutto la Campania a fare i conti con il maltempo. Nel napoletano le piogge insistenti hanno causato allagamenti costringendo i vigili del fuoco a decine di interventi, in particolare nell'area Flegrea. Uno smottamento di terreno ha interessato anche parte del giardino della casa di Severus negli scavi archeologici di Pompei. Disagi anche per il traffico ferroviario. La caduta di un albero ha interrotto l'alimentazione sulla linea Napoli-Battipaglia fra le stazioni di Salerno e Ponte Cagnano. Sospesi anche i collegamenti marittimi con l'isola di Capri, investita da una forte mareggiata. Temporali e nevicate stanno investendo in queste ore anche buona parte del centro-nord. A Roma la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo per le forti piogge attese nelle prossime ore. Danni e disagi sono segnalati anche in Liguria. Nell'entroterra di Genova, ieri, una donna è stata ferita ad una gamba da una roccia franata da una montagna sulla strada provinciale 586, acqua alta invece a Venezia, dove la marea oggi ha raggiunto i 115 centimetri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di Pompei si parlava, e su Pompei, e non solo quella, restiamo perché c'è una maxi operazione in corso da stamattina che riguarda proprio il recupero di reperti archeologici. Sono ben 147 le perquisizioni in corso dall'alba di stamani in tutta Italia da parte dei carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale in collaborazione coi reparti territoriali e mobili. L'operazione, coordinata dalla DDA di Napoli, rientra in un'indagine che non ha precedenti contro il traffico illecito di beni culturali e in particolare punta al recupero di reperti archeologici, ceramiche, monete e oggetti metallici provenienti non solo da Paestum e da Pompei, ma anche dall'area vesuviana e casertana, così come dall'Alto Foggiano e dalla zona orientale della Sicilia. Circa 450 gli uomini impiegati nell'operazione, nella quale finora non si registrano arresti. In gennaio, lo ricordiamo, erano stati recuperati, sempre dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, oltre 5.000 reperti archeologici del valore di 50 milioni di euro, al termine di una complessa indagine internazionale che si è conclusa a Basilea. Mentre due settimane fa, in un'analoga operazione, avevano sequestrato più di 1.000 reperti archeologici per un valore di 1.600.000 euro. In quell'occasione vennero arrestate 19 persone. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo adesso in Emilia-Romagna. È un'indagine che non abbiamo intenzione di mollare, quella che riguarda l'Andrangheta, la penetrazione dell'Andrangheta in Emilia-Romagna. È una vicenda alla quale stiamo continuando a seguire gli sviluppi, come ben sapete, perché insomma continuiamo ad occuparcene. Ebbene, emergono nuove intercettazioni interessanti. Ci racconta tutto Raffaella Calandra. Ora che suoni, funziona così, eh? Come funziona nell'Emilia feudo di 'Ndrangheta lo spiega una consulente col suo spiccato accento bolognese. Funziona che metti a disposizione dei clan la tua professionalità, funziona che sei disposto ad incontrare anche colui che consideri il numero due della mafia calabrese e senza esitazioni lo rivendichi, anzi è un onore secondo il codice di quest'Emilia feudo dei clan, perché è così appunto che funziona, come spiega al telefono col padre Roberta Tattini, già arrestata nel maxi blitz tra la pianura padana e la punta dello Stivale. Il grande, sanguinario, quello che io ho da vivere. Ricordati che lo devi vedere come un grande onore, perché lui non va, cioè, per una questione anche di sicurezza. E Antonio Gualtieri, anche lui arrestato, il sanguinario, e il suo referente soprattutto per Reggio Emilia, considerata dagli inquirenti epicentro di questa 'Ndrangheta emiliana, e per Piacenza. È lui, secondo la consulente, il volto nuovo di questa 'Ndrangheta che non spara ma si fa imprenditore. È un importante, è il numero due della Calabria, dell'Ndrangheta. Un andranghetista, un imprenditore però, comanda tutta Reggio. E questo stesso rapporto tra clan e professionisti si ripete anche, scrivono i magistrati, con alcuni imprenditori locali, come con politici e un giornalista, tutti accomunati da un'incondizionata ammirazione, avvertono i PM, per la potenzialità del gruppo criminale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un ultimo spazio dedicato all'economia e all'Europa, poi chiuderemo invece parlando della Roma, perché se vogliamo parlare di sport in questo periodo è sicuramente il tema che domina, la grande crisi della Roma, ma prima andiamo a parlare di questo tour europeo di Alexis Tsipras e del suo ministro delle finanze, il quale, questo secondo, ha fatto tappa oggi a Francoforte. A giudicare dal calore e dalla partecipazione con cui Juncker ha accolto Tsipras, sembrerebbe essersi dissolto qualsiasi problema sulla strada da Atene a Bruxelles. Il presidente della commissione ha preso per mano il premier greco, gli ha fatto strada e poi la porta si è chiusa alle loro spalle. Poco più di 30 minuti per discutere a quattro occhi della situazione del paese. Dopo è stata la volta del presidente del Consiglio europeo, Tusk. Terzo e ultimo, Schulz, presidente del Parlamento. Solo al termine di questo incontro la stampa ha potuto ascoltare la viva voce di Tsipras. Al di là delle frasi di rito, Tsipras avrà ripetuto la linea del governo greco. Vogliamo ripagare i nostri debiti, ma dovete concederci il tempo e il modo per farlo. Dunque, il vero tavolo di discussione oggi è stato a Francoforte, dove Varoufakis ha incontrato Draghi. Il primo si definisce ministro delle finanze di un paese in bancarotta, l'altro è l'uomo che potrebbe modificare, almeno in parte, il corso delle cose. Girando ad Atene circa 2 miliardi di plusvalenze realizzati sui bond greci e consentendo l'emissione di titoli di Stato a breve termine, la Grecia risolverebbe il problema della liquidità almeno fino a luglio, avendo rifiutato la tranche da 7 miliardi che la Troica doveva accordare entro febbraio. Il colloquio è stato etichettato come fruttuoso dal ministro greco. Altro non si sa, se non che Varoufakis avrà ripetuto che il suo è un paese fallito. Affondarlo non serve a nessuno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di salutarvi, sentiamo il nostro Dario Ricci che ci racconta della crisi della Roma. Altro che la pareggite, la malattia di inizio anno di questa Roma che non sa più vincere. Stavolta sotto il diluvio dell'Olimpico è arrivato addirittura un KO, dall'amaro sapore di verdetto definitivo. 2-0 per la Fiorentina e Coppa Italia addio, così come sempre all'Olimpico i giallorossi avevano salutato la Champions dopo la sconfitta col Manchester City. E stavolta la curva sud, che pure ha tifato per tutti i 90 minuti, al fischio finale ha contestato la squadra. Crisi quella romanista che però ha radici profonde, dallo shock dell'1-7 rimediato sempre in casa contro il Bayern Monaco, ai tanti infortuni, alla Totti dipendenza, a un mercato che ha visto partire l'unica alternativa offensiva al capitano, cioè Mattia Destro, mentre Gervinho e il neo arrivato Dumbia sono ancora impegnati in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio e l'ex cagliaritano Ibarbo è comunque una seconda punta. E poi c'è Rudy Garcia, regredito da profeta del calcio spettacolo a epigono della peggior tradizione dei polemisti italici di bassa lega. Nella bufera, però, c'è un solo dato positivo. In campionato la Juve ha fallito il match point di Udine, i punti di distacco sono rimasti 7 e lunedì 2 marzo all'Olimpico c'è lo scontro diretto. Garcia ha ancora qualche settimana per ritrovare se stesso e la sua Roma. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è veramente tutto anche per il podcast di oggi. Come sempre, critiche, idee, commenti, tutto quello che volete, effetto giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter se volete Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia. Naturalmente ci sentiamo domani con la trasmissione ordinaria, quella dalle 13 alle 14, e poi naturalmente nel primo pomeriggio con il podcast. Grazie per aver scaricato, mi raccomando, iscrivetevi, buona giornata.